Avrà effetti negativi su comuni e regioni. Centro Italia sott'acqua, a Roma un nubifragio blocca la metropolitana, da mercoledì però torna il sereno. A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, De Magistris, un decreto non può cancellare la festa. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Dunque, giornata con la giustizia in primo piano, con Berlusconi in tribunale a Milano per il processo Mills e il suo partito, il PDL, che interviene sull'altra inchiesta, quella di Napoli, dove i PM chiedono l'accompagnamento coatto del Presidente del Consiglio. Ma iniziamo da Milano e dal processo Mills, udienza ancora in corso, ci colleghiamo con il Palazzo di Giustizia dove c'è Raffaella Calandra. Sì, buongiorno, il bivio è proprio questo: Milano o Napoli. Imputato nel processo Mills, parte lesa nell'inchiesta Tarantini, Silvio Berlusconi sceglie Milano per far ritorno in tribunale, mentre prosegue il braccio di ferro con Napoli, che vorrebbe ascoltarlo come testimone nella presunta estorsione da parte dell'ex imprenditore pugliese. Io sto bene, voi invece avete brutte facce, dice il premier scherzando con i cronisti all'arrivo nell'aula. Al momento solo qualche altra battuta e nessun riferimento all'inchiesta barese su escort e affari, ma seduto accanto ai difensori Berlusconi sta ascoltando la deposizione dell'ex amministratrice di quel fondo estero Struglie, dove secondo l'accusa sarebbero passati i $600,000 prezzo della corruzione in atti giudiziari per l'avvocato David Mills, già condannato, che ora deporrà in questo processo il 24 ottobre. Mills mi disse che $1,600,000 transitate su quel fondo erano di sua personale spettanza e non di Briatore, di cui amministrava i trust, racconta la teste De Fusco. In aula Berlusconi ascolta, talvolta scuote la testa o parla con i difensori. Staremo a vedere se a termine dell'udienza vorrà commentare le ultime vicende, compreso il braccio di ferro appunto con la procura di Napoli, che allo scadere ieri delle quattro date indicate per ascoltarlo come teste e quindi da solo, senza avvocati e senza la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, se ci saranno dei passi in avanti. In procura sembravano intenzionati anche a guardare alla data di mercoledì, quando il riesame si pronuncerà sulla competenza territoriale di questo fascicolo, prima anche di prendere una decisione definitiva su come sciogliere, diciamo, questo nodo. Per ora dal Tribunale di Milano è tutto. Grazie dunque Raffaella Calandra da Milano. E sul fronte politico, questo è stato un fine settimana per la maggioranza, con riunioni di partito da parte della Lega e del PDL, partito del Premier, che oggi interviene anche sull'inchiesta di Napoli, che vede il Premier parte offesa. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito, buongiorno. C'è un problema con la linea su Roma, Elisabetta Fiorito la sentiremo più avanti. E sempre per quanto riguarda la politica, ma dal lato dell'opposizione, è rivolta all'interno dell'Italia dei Valori in Molise per la candidatura del figlio di Antonio Di Pietro, Cristiano, alle elezioni del 16 e 17 ottobre al Consiglio regionale. Gli iscritti del circolo Italia dei Valori di Termoli, il giorno dopo la presentazione delle liste, hanno deciso di lasciare in massa il partito, proprio in segno di protesta contro questa decisione che vede il figlio del leader dell'Italia dei Valori candidato in regione. L'ex capogruppo dell'IDV al comune di Termoli, Antonio Russo, al microfono di Adriana Fracchia. Noi riteniamo che un partito quale quello di Di Pietro, che professa principi di giustizia sociale, di pari opportunità, di pari condizioni, di trasparenza, riteniamo che sia inopportuno candidare il proprio figlio, tra l'altro in una regione piccola di appena 200.000 votanti e dove vedrà sicuramente eletto il figlio nella lista. La questione di Cristiano Di Pietro è una questione di opportunità e di non dare adito ad eventuali accuse di gestione familistica del partito nella regione Molise. Questo è il primo punto. Il secondo è perché noi avevamo proposto una candidatura forte che poteva comunque gareggiare del notaio civico di Termoli, ex sindaco, il notaio greco, quale candidato di Termoli. Termoli è la seconda città del Molise per numero di abitanti dopo il capoluogo e ci è stato detto di no. E a questo punto le dimissioni. Le dimissioni dell'intero direttivo cittadino, si è annullato, si è chiuso il gruppo consigliare al comune, hanno costituito un gruppo civico in attesa di una riflessione più approfondita e di decisioni più ponderate e anche definitive. Questa dunque è la polemica all'interno dell'Italia dei Valori in Molise, ma dicevamo nel centrodestra, fine settimana all'insegna delle riunioni di partito, PDL Lega, Elisabetta Fiorito. Sì, tra spinte secessionistiche e sfiducia al Premier inizia la settimana politica. Ieri il leader della Lega Umberto Bossi è tornato indietro nel tempo alle posizioni di 15 anni fa, quelli della secessione, anche se propone uno strumento democratico, quello del referendum, per dar vita alla Padania e a una nuova grande manifestazione in primavera. Intanto il Premier Silvio Berlusconi, sempre più stretto dai procedimenti penali, ribadisce attraverso il segretario politico Angelino Alfano che non ha nessuna intenzione di dimettersi. Insomma, il Presidente del Consiglio se ne andrebbe solo con una mozione di sfiducia, ma secondo indiscrezioni di Repubblica nel PDL si studierebbe una legge per il dopo Berlusconi, anche perché non mancano dubbi sulla Lega rispetto al voto di giovedì per l'arresto dell'ex braccio destro di Tremonti, Marco Milanese. Bocciato invece l'allargamento della maggioranza con l'inclusione dell'UDC, perché Pier Ferdinando Casini pretende la testa di Berlusconi per iniziare a parlare di larghe intese. UDC corteggiatissimo anche dall'opposizione, che continua a chiedere le dimissioni del governo, ma per un'alleanza tra progressisti e moderati. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Siamo alla situazione economica, con le borse di nuovo sotto pressione, così come sotto pressione è tornato anche lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, il tutto in vista dell'annuncio di un piano antideficit da parte dell'America. Ma andiamo sui mercati finanziari con Deborah Rosciani. Sì, c'è anche l'attesa per la riunione della Banca Centrale Americana, che forse potrebbe annunciare un nuovo piano di stimolo monetario, sempre per sostenere congiuntamente l'amministrazione Obama l'economia statunitense in difficoltà. C'è poi anche la previsione di questo incontro a Washington fra i paesi del BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, che settimana scorsa si sono dichiarati disponibili ad intervenire per sostenere il debito sovrano dell'Eurozona. E però la borsa preferisce guardare gli elementi di preoccupazione che sono legati alla situazione della Grecia. I ministri europei nel fine settimana in Polonia hanno lanciato l'allarme che, in assenza di azioni decisive, rifiuteranno di versare ad ottobre la nuova tranche da 8 miliardi di euro al paese ellenico. Quindi c'è tensione ovviamente. Oggi giornata di nuove riunioni straordinarie per fare il punto della situazione. In tutto questo l'Europa riparte la settimana, fa ripartire la settimana molto male, con cali del 2,60% su Parigi, meno 2,74% a Francoforte, meno 1,89% a Londra, meno 2,38% il FTSE MIB a Piazza Affari. L'euro sul dollaro quota 1,3664. Risale, come dicevi tu Alessio, lo spread, il differenziale di rendimento fra il BTP decennale, il titolo di Stato appunto italiano, e l'analogo Bund tedesco, intorno ai 381 punti base, quindi il rendimento del titolo italiano si attesta al 5,62%. Per il momento è tutto. Grazie dunque ancora Deborah Rosciani dai mercati finanziari. E abbiamo parlato molto nei giorni scorsi delle proteste dei sindaci, dei presidenti di regioni contro la manovra economica appena varata dal governo, che prevede tagli appunto agli enti locali. Oggi dall'agenzia di rating Moody's arriva un riconoscimento indiretto al significato di queste proteste, perché Moody's lancia un monito sulla tenuta dei conti di comuni e regioni proprio dopo l'approvazione della manovra. Guarda agli enti locali l'agenzia di rating agli effetti che la manovra economica approvata la scorsa settimana dal Parlamento avrà sulla capacità di spesa di regioni, province e comuni. Moody's nel suo rapporto settimanale mette in evidenza in particolare due tematiche del provvedimento da 54 miliardi di euro. Anticipando di un anno l'obiettivo del pareggio di bilancio, viene spiegato nel rapporto, le nuove misure di austerità riducono il budget degli enti locali di 7 miliardi per il 2012-2013 e danno meno tempo per sistemare i bilanci. Ed anche la maggiore autonomia impositiva degli enti locali, si legge nell'Outlook, compenserà solo in parte i tagli ai trasferimenti, considerando che le entrate addizionali derivanti dalla lotta all'evasione sono abbastanza incerte. Quanto all'abolizione delle province, aggiunge il report, le incertezze circa il piano per eliminare le 108 amministrazioni eccedono i potenziali benefici in termini di risparmi, almeno nel breve termine, perché, spiega Moody's, per la riforma costituzionale servirà un lungo periodo di implementazione e un esteso dibattito politico. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Era una notizia a cavallo tra economia e politica, perché sulla stampa tedesca, in particolare sul settimanale Der Spiegel, rimbalza l'intercettazione definita anche negli ambienti politici italiani intercettazione killer, nella quale il presidente del Consiglio italiano Berlusconi avrebbe definito la cancelliera tedesca Angela Merkel in una maniera molto pesante. Laura Bettini ha chiesto su questo un commento a Udo Gumpel, un giornalista tedesco corrispondente dall'Italia per la TV. Credo che l'Italia dovrebbe cambiare urgentemente governo, perché quello che l'Economist ha scritto tanti anni fa, questo signore Berlusconi è anzitrino, è incapace di guidare il paese, l'ha detto lui, l'ha confermato lui, ha detto io faccio il Presidente del Consiglio a tempo perso, perché la maggior parte del suo tempo lui si occupa di donne, donnine, di prostitute e di difendersi dalle notizie che escono da questo circo nell'opinione pubblica italiana. È questa l'Italia che quindi stai presentando ai telespettatori tedeschi? Ma per fortuna dell'Italia nel mondo succedono tante cose e non abbiamo sempre acceso i riflettori sull'Italia. E noi come cronisti che stimiamo anche questo paese cerchiamo naturalmente anche di mettere sotto la luce le cose positive, aziende che funzionano, iniziative che sono condivisibili, e se noi dovessimo solo parlare delle donnine del Presidente del Consiglio sarebbe veramente da espatriare anche per noi. Adesso parliamo di televisione, perché stanotte c'è stata la cerimonia di consegna degli Emmy Awards, i premi alle migliori serie TV, con una conferma e un asso piglia tutto. Ne parliamo con Marta Cagnola. Sì, che sia la serie più divertente ormai già da qualche stagione è fuori di dubbio, ma questa notte è stata anche la più premiata. Parliamo di Modern Family, il vincitore assoluto della 63esima edizione degli Emmy Awards, i premi della TV americana che ogni anno inaugurano la stagione televisiva. Miglior attore brillante e non protagonista, miglior attrice brillante e non protagonista, migliore regia e migliore sceneggiatura di una commedia. Trionfo per le serie drammatiche invece ancora una volta per Mad Men, quarta stagione, quarto successo. A L'Emplin è mancato solo il premio come miglior attore protagonista, soffiato a Jon Hamm da Kyle Chandler di Friday Lonely Nights. Miglior attrice drammatica Juliana Margulies per Good Wife. Per quel che riguarda le comedies, migliori attori Jim Parsons di Big Bang Theory e Melissa McCarthy di Mike and Molly. Ormai i confini tra buona TV e cinema sono invisibili, quindi Martin Scorsese ha vinto il premio per la regia della serie drammatica Boardwalk Empire, Kate Winslet per la migliore interpretazione in una miniserie TV Mildred Pierce. Ed è tutto. Grazie, grazie anche a Marta Cagnola. E adesso chiudiamo questa prima parte di GR24 parlando di calcio. Posticipo che sembrava già una sfida scudetto tra Napoli e Milan, hanno vinto i partenopei con la tripletta di Cavani, ma il campionato di Serie A ritorna domani col turno infrasettimanale. Sentiamo. Sì, sappiamo che è molto difficile questo campionato, è molto lungo, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Gli 80.000 del San Paolo che cantano impazziti di gioia. Lui, Edinson Cavani, il bomber che ha matato il diavolo, che predica umiltà. Paradossi possibili solo nello stadio che fu di Maradona e che ora è ai piedi di questo uruguagio mite ma letale in zona gol. La volata a scudetto è ancora lontana, ma certo il 3-1 che gli azzurri rifilano ai campioni d'Italia peserà e come nella lotta al tricolore. E dire che è ispirato da un buon Cassano, Aquilani porta avanti i rossoneri. Due minuti e Cavani insacca il pari, poi tra fine primo tempo e inizio ripresa ecco gli altri due gol che tramortiscono il Milan privo di molti, ma soprattutto di Ibrahimovic. E allora il poker di testa, oltre Napoli e Cagliari, anche la Juve che vince 1-0 a Siena e l'Udinese che piega 2-0 la Fiorentina, è servito. Domani è ancora campionato con Novara-Inter, mercoledì Chievo-Napoli, Juventus-Bologna e il big match Milan-Udinese. Per tutti, vincitori e vinti, sarà la prova del 9. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:17, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato di Berlusconi in aula al processo Mills, una battuta sui giornalisti, avete delle brutte facce, ha detto, e poi a proposito dell'inchiesta di Napoli il PDL è intervenuto dicendo voteremo no alla richiesta di accompagnamento coatto del Premier in procura. Sul fronte economico oggi borse di nuovo negative, risale lo spread tra titoli tedeschi e italiani, l'agenzia Moody's lancia un monito. Dalla manovra economica arriveranno effetti negativi sui consumi e sui comuni, scusate, e sulle regioni. Adesso le altre notizie. A cominciare dal maltempo che ha causato forti disagi in tutta Italia, soprattutto al centro. Già da mercoledì ci sarà un miglioramento netto in tutta Italia, intanto però le piogge hanno causato parecchi problemi, soprattutto in centro Italia. Sentiamo. Il maltempo si è spostato al centro e al sud. L'aeronautica militare prevede ancora temporali per domani, con burrasche in Calabria e Sicilia, dove già stamane l'aeroporto di Palermo è stato chiuso mezz'ora per una forte tromba d'aria che ha sollevato un Falcon 2000 fermo sulla pista. L'aereo è finito contro due auto. A Roma, per un nubifragio durante la notte, sono state chiuse 6 stazioni della metro A. Diana Formaggio, dell'Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma, ci aggiorna sulla situazione nella capitale. Sono state riaperte 4 stazioni, in particolare San Giovanni, Furio Camillo, Lucio Sestio e Numidio Quadrato. L'ATAC ha provveduto a mettere a disposizione degli utenti un servizio bus di supporto, quindi diciamo che la situazione si sta normalizzando. In superficie diciamo che bus risentono della congestione piuttosto notevole di traffico. Non va meglio nel Viterbese, strade allagate e auto distrutte a causa delle piogge. Al nord invece si registrano le prime nevicate in Lombardia, Livigno e in Trentino Alto Adige, dove sono stati chiusi i passi dello Stelvio, Giovo, Rombo e Penn. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo a Napoli, dove stamattina si è rinnovato il miracolo di San Gennaro. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E il cardinale Crescenzo Sepe, che sentite, non ha dovuto nemmeno agitare l'ampolla perché il sangue del santo era già sciolto quando ha prelevato la teca dalla cassaforte. Un miracolo che quest'anno assume a Napoli una particolare valenza perché, a causa della manovra che sopprime le feste patronali, sarà questo l'ultimo anno di festa cittadina con scuole e negozi chiusi. Presente anche il sindaco di Napoli De Magistris, che ha commentato: un governo in scadenza non può pensare di cancellare anche le festività religiose. E adesso siamo al nostro appuntamento fisso da qualche tempo a questa parte su Radio 24, GR24, con la rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Medici ospedalieri che esercitano in studi privati, insegnanti che danno ripetizioni al pomeriggio, operai che si improvvisano in bianchini nel tempo libero. Secondo l'Istat, in Italia quasi 5 milioni di persone hanno un doppio lavoro, a volte in nero. L'Agenzia delle Entrate non ha ancora quantificato quanti sono i dipendenti che hanno un secondo lavoro non denunciato, ma ci sta lavorando, come spiega Francesco Vittorio Gravina. L'intero mondo dei redditi di lavoro dipendente viene preso in considerazione al momento in cui veniamo a individuare che un soggetto spende per investimenti e soprattutto per consumi degli importi superiori rispetto a quello che va a dichiarare. Oggi l'agenzia ha un modo per scoprire questi evasori, il nuovo redditometro. Se il contribuente dichiara 30.000 euro annui di reddito e poi spende oltre 5.000 euro per l'iscrizione a un circolo privato, 16.000 di affitto, 35.000 per l'acquisto di un'auto, per un totale di oltre 100.000 euro di spese annue, si attira l'interesse inevitabilmente degli ispettori e scatta l'accertamento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo di nuovo allo sport con due nazionali azzurre impegnate in due competizioni internazionali. Argento per l'Italia della pallavolo agli europei di Vienna. In finale l'Italia, che riconquista il podio dopo 6 anni di assenza, è stata sconfitta dalla Serbia. E invece ai mondiali di Nuova Zelanda per l'Italia del rugby, seconda determinante partita per andare avanti nei mondiali contro la Russia. Sentiamo. Un'Italia rinnovata all'insegna del turnover per un compito che non si può fallire. Domani gli azzurri sono favoriti contro la Russia, ultima arrivata in questa Coppa del Mondo nella quale è l'unica esordiente assoluta. Ma il compito di Parisse e compagni si è fatto più difficile dopo che nel nostro girone l'Irlanda ha battuto a sorpresa l'Australia. A questo punto, conti alla mano, per centrare la prima storica qualificazione ai quarti di finale non sarà sufficiente battere gli irlandesi, impresa di per sé già molto difficile. Prima del match con gli uomini in verde bisognerà anche superare sia la Russia sia gli Stati Uniti tra 8 giorni, segnando almeno 4 mete in entrambi i match. È questo il solo modo per conquistare i punti di bonus in classifica che permetteranno di arrivare allo scontro decisivo con speranze concrete. Meglio comunque affrontare un ostacolo per volta, a partire dalla Russia, che ha perso di misura il primo match con gli Stati Uniti. La mischia azzurra è quasi completamente cambiata rispetto a quella che ha affrontato l'Australia e la mediana sarà composta dai giovani Gori e Bocchino. Fra i tre quarti solo Masi e Benvenuti sono confermati. In panchina una modifica dell'ultima ora, Orchera ha un lieve infortunio e sarà sostituito da Canale. Giacomo Bagnasco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Nelson. E ora parliamo di un appuntamento, perché da oggi e per tutta la settimana l'associazione L'Arte del Vivere con Lentezza lancia la quinta edizione di Leggevamo quattro libri al bar, un festival della lettura ad alta voce, come la definisce Bruno Contigiani, presidente dell'associazione. La manifestazione è partita ieri a Pavia e si sviluppa attraverso il web con iniziative che fioriscono in moltissime città italiane. Sentiamo proprio l'organizzatore Bruno Contigiani al microfono della nostra Adriana Fracchia. Si tratta di una manifestazione nella quale si invitano le persone a conoscersi, a rappresentarsi, a svelarsi attraverso un libro, utilizzando i bar come luogo di incontro e quindi cercando un po' di rompere la solitudine che caratterizza un po' le nostre città, ma purtroppo anche i nostri paesi, per tornare a far vivere i bar come luoghi di incontro e luoghi anche di culture. E quindi si va in un bar con il libro che si sta leggendo, si invitano le persone a leggere ad alta voce e magari poi nascono delle amicizie e magari una voglia anche di rincontrarsi. A oggi siamo a più di 100 adesioni, cioè 100 città, 100 luoghi, 100 eventi in giro per l'Italia, di cui tanti a Pavia, dove noi nasciamo, e soprattutto veri e propri programmi, mini festival in cui la gente si trova a leggere ad alta voce. Si possono unire letture di ogni tipo e l'importante è che avvenga uno scambio, una voglia di vedersi. C'era molta attesa ieri sera nella TV francese e non solo per la lunga intervista, la prima concessa dopo l'accusa per violenza sessuale, da Dominique Strauss-Kahn, ex direttore del Fondo Monetario Internazionale. Sentiamo com'è andata. 13 milioni e 446 mila telespettatori, 4 milioni in più del disastro nucleare di Fukushima, 200 mila in più rispetto al 7 novembre 2005, serata di audience record, quando il governo annuncia il coprifuoco per fermare la rivolta nelle periferie. La studiatissima intervista a Dominique Strauss-Kahn, la prima dell'ex direttore generale del Fondo Monetario, sullo scandalo sessuale del Sofitel, ha regalato alla prima rete TF1 il primato storico degli ascolti di un telegiornale. Ma non ha convinto i francesi, che ancora non sanno cosa è successo esattamente nella suite dell'hotel di New York. Desca ha negato che ci sia stata violenza, ha parlato di relazione inappropriata, non a pagamento. Si è scusato parlando di colpa morale. Seconda, dopo il rapporto del 2008 con l'economista ungherese del fondo Piroska Nagy, e se sbagliare è umano, pensano in molti, perseverare è diabolico o patologico. Imbarazzo in casa socialista con la rivelazione di un patto di desistenza tra Strauss-Kahn e Martino Dri per la corsa alle presidenziali, che indebolisce la posizione della segretaria del PS, già distaccata dal più popolare François Hollande. Marco Mussonet, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Vi lasciamo all'Italia in controluce. Da Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltritti in regia. L'auguro di una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.